Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. È molto difficile per chi non ha mai provato una certa realtà capire e giudicare cosa sia più o meno giusto, ma nel caso di Eluana io non capisco il padre. Se veramente la volontà della ragazza era quella di non voler sopravvivere a questa realtà, se veramente lui è convinto fino in fondo che la fine di sua figlia sarebbe ridarle libertà e dignità, perché non si prende la responsabilità di regalarle una nuova vita dandole la morte? Alla faccia delle leggi che non ci sono, alla faccia delle conseguenze, senza che sua figlia diventi una bandiera, senza delegare altri a questa triste azione. Perché non ne ha il coraggio? Una cosa poi non condivido, ma morire di sete e di fame viene forse considerata una morte dolce? Per me è una tortura e troverei molto meno doloroso un metodo veloce, indolore e sicuro. Non saprei quale, ma sicuramente ce ne saranno. Forse però non si avrebbe più la consolazione di dire che è morta naturalmente, da sola. E se si capisse che ha sete, che elemosina acqua, chi avrebbe il coraggio di non dissetarla? Chi potrebbe accettare una tale situazione? Il padre? Giulia. Ho ascoltato la trasmissione del 20 gennaio sul caso Englaro. Tutti gli ospiti hanno prodotto argomentazioni interessanti, ma nessuno su questo caso ha sottolineato il fatto che la cara Eluana possa nel frattempo avere cambiato idea, e cioè che voglia vivere anche così, tra l'affetto del padre e le cure mediche. Penso che il ragionevole dubbio possa essere applicato anche in questo caso. Chi può dire quindi che Eluana e tutti quelli che si trovano in una situazione come la sua, o anche peggiore, non abbiano una capacità percettiva che sfugge alla strumentazione di cui attualmente l'uomo si avvale? Non possiamo avere la sicurezza totale che Eluana non senta, non veda e non parli, solo perché il computer non rileva nessun tipo di attività cerebrale. Gli attuali computer stanno alla mente umana come gli alchimisti alla medicina prima maniera. Dobbiamo accettare questo limite. Vorrei poter aggiungere una bottiglia d'acqua per Eluana, o se fosse possibile, metterla virtualmente via web. Grazie, Elena. Lettera aperta indirizzata a quelli che manifestavano perché Kakà rimanesse al Milan. Tu, che manifesti perché questo ragazzino viziato non vada a correre in mutande da un'altra parte, probabilmente guadagni, quando ti va bene, 900 euro al mese. E manifesti a favore di chi il tuo stipendio lo spende per una fornitura di carta igienica super morbida e profumata. Magari vivi anche in un bilocale a 1000 euro al mese d'affitto e sopravvivi perché a 35 anni ti fai ancora mantenere da mamma e papà. Al lavoro sei sfruttato, sottopagato, sodomizzato, ma lì non dici nulla. Non dici nulla tu che lavori per quattro soldi, mentre i tuoi divi guadagnano e spendono proprio perché tu sei parte di un sistema che, grazie al tuo essere sfruttato, fa sì che pochi spendano e guadagnino quello che tu non guadagni. Non pretendo che tu faccia la rivoluzione, ma almeno evita di manifestare per un miliardario affinché sia ancora più ricco. Lettera firmata. Strade in diretta. Buongiorno, ben trovati. Siamo al primo appuntamento con le notizie sulla viabilità. Ridotta questa mattina c'è la nebbia su strade e autostrade al centro-nord. Prudenza tra Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna, ma anche al centro tra Toscana, Umbria e Lazio. Al sud invece sulla 3 Salerno-Reggio Calabria ci sono rallentamenti per un incidente tra Lago Negro Nord e Lago Negro Sud verso Reggio Calabria. Attenzione, il tratto interessato anche dalla nebbia a Banchi e dalla Pioggia fino a Lauria. E poi ancora dobbiamo segnalare che oggi una manifestazione di protesta potrebbe bloccare le attività portuali in tutta Italia. Le operazioni ai porti, soprattutto quelli commerciali, saranno ferme fino a luna di venerdì 23 gennaio, quindi per tutta la giornata di oggi si potranno verificare problemi alla viabilità nelle zone dei porti, soprattutto per i mezzi pesanti in attesa di imbarco. Vi terremo aggiornati, ma noi ci risentiamo tra poco meno di mezz'ora. L'ateismo diventa spot pubblicitario anche in Italia. Lo spot ateo italiano dovrebbe partire il 4 febbraio prossimo da Genova, dove l'UAR, Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti, ha stipulato un contratto con l'azienda del trasporto pubblico per l'affissione sui bus cittadini della scritta «La cattiva notizia è che Dio non esiste, quella buona è che non ne hai bisogno». In attesa di raccogliere fondi sufficienti per allargare l'iniziativa ad altre città italiane, l'UAR è partita da Genova, che offrendo prezzi più bassi per la pubblicità è riuscita ad attrarre l'importante investimento. L'iniziativa non è nuova, è nata nel paese guida dell'Occidente, gli Stati Uniti, dove dal mese di novembre 2008, sui bus di Washington, la Humanist Association ha affisso la scritta «Perché credere in Dio? Sii buono per amore della bontà». Poi si sono attivati gli atei inglesi, che nei primi di gennaio hanno affisso sulle stazioni della metropolitana di Londra, su 200 bus della capitale e 600 sparsi per il paese, la scritta «Probabilmente Dio non esiste, smettila di preoccuparti e goditi la vita». L'iniziativa ha avuto successo. I promotori hanno raccolto ben 140.000 sterline di fronte ad un target di 5.000. Dopo è arrivata la Spagna, che ha copiato lo slogan inglese sui bus di Barcellona e prossimamente in altre città. In Spagna, però, gli atei sono giunti in ritardo. Prevedendo la loro mossa, il pastore evangelico madrileno Paco Rubiales li ha anticipati, affiggendo dal giorno di Natale 2008 sul bus 493 la scritta «Dio esiste, goditi la vita in Cristo». È andata invece male in Australia, dove la pubblicità è stata per ora respinta. Quanto a tempismo, l'UAR è riuscita a piazzarsi terza in Europa, dopo Gran Bretagna e Spagna, e grazie alla defezione dell'Australia, quarta nel mondo. Ma in una classifica basata sull'analisi di contenuto, i nostri atei battono nettamente gli altri concorrenti. Gli americani sono così timidi che neanche scrivono che Dio non esiste. Poi, preoccupati per le eventuali conseguenze morali negative, ci esortano ad essere comunque buoni. Gli inglesi e gli spagnoli non sembrano molto convinti della non esistenza di Dio, ma dicono con prudenza che probabilmente non esiste. Ma i nostri, invece, si mostrano molto più preparati, sono sicuri che Dio non esiste. Speriamo che qualche puntiglioso filosofo non li accusi di pubblicità ingannevole, perché potrebbero risponderne ad un giudice. Ma la cosa che più mi ha colpito e commosso nello spot italiano è la preoccupazione per i bisogni del prossimo. Stiamo tutti meglio ora che sappiamo che l'UAR pensa ai nostri bisogni e con tanta premura e sacrificio economico ci rassicura che non abbiamo bisogno di Dio. È che io, testardamente, ho sempre percepito i consigli non richiesti come una fastidiosa invadenza. Perciò, sotto lo spot ateo dell'UAR, metterei la scritta «Fatevi i fatti vostri». La mia è però una fuga in avanti. Per il momento, l'iniziativa è stata bloccata dalla concessionaria per la pubblicità e contro la decisione, l'UAR è ricorsa al TAR. Lettera firmata. Buongiorno, direttore. Credo di aver perso la mia capacità discrezionale in merito alla questione Israele. Ascolto regolarmente BBC World News e devo dire che i fatti riguardanti il problema di quella striscia di terra sono riportati in modo, secondo me, più obiettivo di quanto succeda da noi. Raccontano degli attacchi da parte di Israele su un territorio abitato da civili, raccontano dei bombardamenti, raccontano dei morti, raccontano delle devastazioni, senza pregiudizi ideologici, intitolando persino uno dei servizi 21st Day of Israelian Military Offensive on Gaza. Mi sembra che la posizione filo-israeliana, che continua a tener conto delle sofferenze del popolo ebraico durante l'ultimo conflitto mondiale, sia il retaggio di un profondo senso di colpa che noi italiani proviamo per essere stati fra i fautori della guerra e promulgatori delle ignominiosi leggi razziali. Ferrara suggerisce di non celebrare il giorno della memoria. Personalmente non credo che la celebrazione sia in contraddizione con la posizione di molti oggi nei confronti di Israele. Ritengo piuttosto che sia il modo per ricordare alle giovani generazioni quello che è successo a causa di uno strapotere politico e militare nei confronti di persone sparse nelle varie nazioni, inermi e incapaci di trovare a quel tempo la forza e la possibilità di unirsi, coalizzarsi e reagire. E che potrebbe continuare a succedere laddove gli esseri umani non siano considerati persone degne di godere degli stessi diritti. Credo anche che sia grande la responsabilità di chi non vuole raccontare i fatti per quello che sono, superando le questioni ideologiche, per fare chiarezza soprattutto ai giovani, che poco sanno, ma anche ai vecchi, che non si sono mai troppo interessati ai problemi di quel territorio, delle condizioni che Emergency o Medici Senza Frontiere ripetutamente denunciano. E che anche la Chiesa, sebbene io reputi errato il suo intervento in questioni politiche, ha biasimato a voce così alta. Perché Israele ha impedito l'accesso ai giornalisti? Riguardo al confronto Italia-America, ho sentito paragonare la politica e le istituzioni americane all'Italia. Se proprio vogliamo fare un paragone, l'Italia potrebbe essere paragonata alla California per la sua posizione a sud rispetto agli Stati Uniti e per il clima. Per il resto, mi sembra che ci sia qualche differenza. Gli stati americani sono 50 e l'Italia è uno dei 27 stati europei. Il presidente americano è eletto con un sistema assolutamente democratico e cavilloso dai 50 stati, mentre l'Europa non ha un presidente eletto. Ciascuno stato americano ha un governatore eletto, i cui poteri si limitano alla politica interna del suo stato, purché non siano in contraddizione con la Costituzione e con le leggi federali. Noi non abbiamo ancora una Costituzione europea che limiti l'operato del Presidente del Consiglio italiano in termini di politica estera o di rispetto delle leggi comunitarie. Quindi, quando ci riferiamo alle ambizioni presidenzialiste del nostro attuale Presidente del Consiglio, che già ora si comporta in modo irrispettoso nei confronti del nostro Parlamento, che cosa c'entra l'America? Il presidente americano, il più potente uomo del mondo, è limitato, controllato e a volte impedito nello svolgimento del suo operato, grazie all'equilibrio dei poteri che, nonostante i ricatti, le violenze e i giochi di potere, permette al Senato e al Congresso tutto di porre il veto sulle decisioni del presidente. Il nostro presidente del Consiglio fa approvare le sue decisioni con voti di fiducia. La Costituzione americana prevede che il Senato sia composto da due senatori per ciascuno Stato, proprio per garantire l'uguaglianza di forza politica di ciascuno Stato, indipendentemente dal numero della popolazione. In Italia, il Senato, per rappresentare l'Italia federale, con il meccanismo del premio di maggioranza, vede una drammatica differenziazione fra le regioni. In America, domani, diventerà presidente un nero. Da noi, in Italia, nel nostro bel paese, i neri vengono pestati dalla polizia, vivono emarginati, sospettati come nell'America degli anni 50 e 60. Di nuovo, dov'è il paragone con l'America? Fiorella. Semplice, immediato, serio, emozionato. Obama ha toccato tutti i punti importanti. E niente ipocrisia e false promesse. Bellissimo il richiamo alla responsabilità. Non c'è libertà senza responsabilità. E il richiamo ad un'economia più giusta e più etica, libera, ma non senza regole. Impareranno qualcosa da quest'uomo che è prima uomo e poi presidente, i nostri insopportabili politici? Teresa. Probabilmente sono molti gli illusi che pensano che Obama, con una bacchetta magica e con tanti bei sorrisi, possa nel breve arco di tempo del suo mandato cambiare il mondo, trasformandolo nella paradisiaca e utopistica isola che non c'è cantata da Edoardo Bennato. Questi miracoli, ovviamente, non si avvereranno. Obama, per dirne una, certamente non sbraccherà di fronte al terrorismo e se le circostanze dovessero richiedere l'uso delle maniere forti, le userà, come ha fatto intendere in un passaggio del discorso di insediamento. A coloro che cercano di raggiungere i propri obiettivi, creando terrore e massacrando gli innocenti, noi diciamo adesso che il nostro spirito è più forte e non può essere infranto. Voi non ci sopravviverete e noi vi sconfiggeremo. Ma il punto è un altro. Non serve essere idealisti e sognatori per sperare in qualcosa di meglio rispetto a quanto visto negli ultimi 8 anni. Chi ha i piedi ben piantati a terra non chiede a Obama un'inversione di rotta totale di 180 gradi, bensì un cambiamento di direzione molto più sottile. Qui si tratta di correggere gradualmente l'approccio con cui l'America si presenta al mondo. Un po' meno pugno chiuso e un po' più mano aperta, un po' meno muscoli e un po' più dialogo. È una questione di visione, di impostazione, di apertura. Ci sono decine di frammenti del discorso di Obama durante la cerimonia di insediamento che ha avuto luogo martedì a Washington che potrei citare a supporto di quanto ho appena scritto. Prendiamo ad esempio questo passaggio. Il nostro potere da solo non può proteggerci, né ci autorizza a fare come più ci aggrada. Al contrario, sapevano che il nostro potere cresce quanto più lo si usa con prudenza. La nostra sicurezza emana dalla giustezza della nostra causa, dalla forza del nostro esempio, dalle qualità dell'umiltà e del ritegno. Si può tentare quanto si vuole di sminuire la portata di questa novità che coinvolge il mondo intero, ma di appuntamenti con la storia, nell'arco di un'esistenza, non ce ne sono poi tanti. Francesca. Caro direttore, l'attenzione del mondo si è concentrata martedì scorso sul giuramento del nuovo presidente americano. Un grande spettacolo, una grande festa, parole ricche di emozione, di retorica. Ma cambierà veramente qualcosa in America? Federica. Cara Federica, il mondo è cambiato e dobbiamo cambiare anche noi. Questa, una delle frasi a effetto del nuovo presidente americano in un discorso, lei ha ragione, carico di retorica e di passione. Ma se lo spettacolo è stato una parte importante della cerimonia, non si può dimenticare come il richiamo più forte sia stato quello della responsabilità. Alla responsabilità di ciascuno, alla necessità che ognuno svolga il suo ruolo all'interno di una società che ha saputo vincere in passato grandi battaglie e ottenere grandi vittorie nella dimensione sociale, economica e soprattutto in quella della democrazia. La vera sfida di Obama, proprio perché abbiamo parlato di spettacolo, è ora quella di trasformare gli spettatori in protagonisti. Certo, c'è stata molta retorica e altrettanta enfasi, ma il cammino dell'uomo ha bisogno di ideali, di passioni, di emozioni. La fiducia, lo sappiamo, è un elemento fondamentale, soprattutto ora di fronte alla crisi economica e finanziaria. E di fiducia non ce n'è mai abbastanza. Ci riuscirà quindi l'America a cambiare e a vincere questa nuova sfida? Per il nostro interesse, speriamo di sì. Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Ho appreso che il signor Renato Curcio, ex terrorista, ha rivolto un appello perché desidera ottenere dallo Stato italiano la pensione che gli è stata negata dall'INPS. Finalmente l'INPS qualcosa di buono l'ha fatto. Mi nascono spontanee alcune riflessioni. Si può andare in pensione senza aver lavorato un certo numero di anni? Perché il signor Curcio, invece di dedicarsi alla guerra armata e alla rivoluzione proletaria, non si è dedicato come noi tutti a svolgere un lavoro normale? Perché il signor Curcio pretende la pensione quando nemmeno alcune vittime del terrorismo l'hanno ricevuta da questo Stato? Il signor Curcio, in questi anni, ha mai chiesto scusa alle vittime del terrorismo che oggi, a stento, cercano di condurre una vita decorosa? Se lo Stato concede a Curcio una pensione pagata dall'INPS, io chiedo asilo politico all'America o a Israele, che hanno mostrato sempre la loro vicinanza alle vittime del terrorismo e non ai carnefici. È giunta l'ora di dire basta. Basta alla mafia e ai mafiosi che hanno benefici legali. Basta ai terroristi che trovano rifugio in Francia o in Brasile. Basta ai nostri ex terroristi che si mostrano in televisione, radio, giornali, università. Rivolgo a questo punto un appello al dottor Sandro Bondi, ministro dei beni culturali. Signor ministro, passando per Bologna ho notato che sulla lapide che ricorda la strage di Bologna c'è scritto «un attentato terrorista di stampo neofascista». Mi sono quindi recato sulla lapide di mio padre, Lando Conti, ex sindaco di Firenze, assassinato dalle BR, e ho trovato scritto che venne assassinato per mano terrorista. Signor ministro, esiste forse un terrorismo buono, le Brigate Rosse, Partito Comunista Combattente, e un terrorismo cattivo, neofascista? Io credo che tutto il terrorismo sia da punire, sia di destra che di sinistra o di matrice religiosa. Chiedo pertanto un suo intervento per arrivare a garantire la verità storica. Lorenzo Conti, Firenze.